tipella tranquilla, ma poi mi sono accorto che sei una colla. Sei una cella, i tuoi tipi sono ostaggi, incatenati da baci e abbracci, torturati da decine di messaggi. In segreteria, stare insieme a te è stata una parodia di un romanzo rosa Harmony, ma io non sono il tipo. Mollami! Staccati da qua, tu hai le tue finte qualità, messa in bella vista, sei altruista, ambientalista. All'università frequenti solo figli di papà, miliardari di sinistra e con grinta. Fai la tipa alternativa, convinta, ma come i soldi del Monopoly sei finta. E sai che c'è? C'è che non c'è più niente da fare, e c'è che mi hai rotto il feeling, e c'è che mi devi mollare. Mollami, mollami, ma hai rotto il feeling. C'è che mi hai rotto il feeling. Provavo a liberarmi e diventavi stretta. Avevi il gusto di una pasta asciutta, fredda, e di una Coca-Cola calda, scaldata. E ti eri improvvisata, chioccia, molla la boccia, taglia la barba, fatti una doccia. Ma io non sono fido e non mi metto a cuccia, e non voglio il guinzaglio stretto al collo. Scollati che è meglio, miss Francobollo. Piccola mantenuta, sui soldi non fai una piega, chi se ne frega? Tanto il papi paga, paga la benza, paga la scuola, paga l'appartamento, per la bambina e il bambino, da fondo allo stipendio. E fingevi allegria se ti portavo in birreria, vicino ai bordi di periferia. Ma tu sei tipa da biblioteca e puri, ci ho provato ad accontentarti, ma mi sono ucciso il feeling. Mollami, mollami, ma hai rotto il feeling.